Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutte, da Olga e Lara. Col cinema viene condotta da varie parti una lotta silenziosa ma gigantesca che mette in gioco valori psicologici, morali e materiali sconosciuti ai tecnici della guerra delle armi. Combattere un tipo di cinema straniero che nuoce all'educazione e all'educazione delle nostre masse semplicemente con la critica è ridicolo. Ai films bisogna contrapporre i films. Queste le parole di Carlo Lizzani su Il Politecnico, rivista di politica e cultura dell'immediato secondo dopoguerra. Rivista che diverrà celebre per il diverbio tra il proprio direttore, Elio Vittorini, e il segretario del PC, Palmiro Togliatti. Questo dibattito fu il risultato di visioni contrastanti tra il ruolo della cultura e del lavoro culturale, di fronte a un'Italia da ricostruire, sia materialmente che moralmente. Ma perché un segretario di partito si trova a discutere di letteratura? E cosa c'entra il PC col cinema? La costruzione del Partito Comunista, dopo la Seconda Guerra Mondiale, non passa soltanto attraverso il rapporto con la classe operaia e nello sviluppo di una politica marxista, comunque sempre centrale, ma anche nel rapporto con una classe intellettuale e nella formulazione di un'estetica e di un preciso lavoro culturale. Molto si deve alla commissione operata da Togliatti di tematiche marxiste e istanze gramsciane, per cui strutture economiche e le sovrastrutture culturali sono fortemente legate. Gli anni dal 44 al 48 sono gli anni in cui il Partito Comunista si rinnova, anche a partire dalla propria identità culturale e letteraria, un'idea di estetica nazional popolare che riprende le tematiche del verismo, la critica letteraria di De Sanctis e la letteratura americana sociale degli anni 30. Il cinema neorealista riesce ad essere il corrispettivo sullo schermo di queste tre visioni, in modo più o meno voluto. Non solo, i protagonisti dei film erano proprio quelle classi subalterne che ritroviamo negli scritti di Gramsci, così da avvicinare la macchina da presa alla realtà sociale. Eppure, i registi e gli sceneggiatori neorealisti provenivano tutti da un ambiente fascista, chi dai CineGuff, ovvero i gruppi universitari fascisti di cinema, chi dalle Colonne di Cinema, la rivista diretta da Vittorio Mussolini, chi dal Centro Sperimentale di Roma, vera e propria creazione del regime. Ma come ricorda Lizzani, De Sanctis e Puccini erano in contatto col Partito Comunista clandestino attraverso Alicata, Ingrao, Bufalini. Alcune copie della Storia della Rivoluzione Russa di Trotsky e delle questioni del leninismo di Stalin uscirono dalla redazione di Cinema, dove erano nascoste sotto l'inconsapevole protezione di Vittorio Mussolini, e emigrarono verso la sede del CineGuff a Palazzo Braschi, sede del fascio romano, e ovviamente per una sorta di parallelismo centro di aggregazione di giovani intellettuali che andavano scoprendo l'antifascismo e il marxismo. La caduta del regime comporta un particolare risveglio culturale, a metà tra il senso di dovere e di liberazione, soprattutto da parte del ceto intellettuale colpevole, diversamente dagli strati popolari, di un esplicito sostegno al fascismo. Dal punto di vista cinematografico, in ogni caso, il neorealismo inizia ad affacciarsi già nel 1943, con Ossessione di Luchino Visconti. Alla sceneggiatura collabora anche Mario Alicata, all'epoca redattore dell'Unità Clandestina. Alicata sarà uno dei maggiori referenti culturali del PC, per la sua vicinanza alle idee di Togliatti. Il connubio tra comunismo e neorealismo, quindi, è quello forse più riuscito in campo culturale. Per quanto i film neorealisti siano effettivamente pochi rispetto alla produzione complessiva italiana, ogni autore o regista di sinistra passa per il neorealismo ed ogni autore o regista diventa di sinistra. Da questo momento si stabilisce un'equazione particolare che segnerà per molti anni la cultura italiana: cinema uguale sinistra. Il PC aiuta sia intellettualmente che materialmente, dando i fondi a Visconti per creare il film La Terra Trema o mettendo a disposizione di De Sanctis e Lizzani un redattore dell'Unità di Torino per pensare meglio la storia di Riso Amaro. Quel redattore sarà Raff Vallone. Certo è che il conservatorismo e le censure della DC non aiutarono a contrapporre una cultura centrista a quella del PC. Anzi, Mario Scelba inventa il neologismo culturame, e solo dagli anni 50 i democristiani prenderanno il monopolio dello spazio televisivo. Gli anni d'oro del neorealismo, dal 48 al 52, e poi tutti gli anni 50, saranno gli anni di un attacco censorio senza precedenti. Uno fra tutti la denuncia in Parlamento del film Umberto D, da parte di Andreotti, oppure il taglio di intere scene di un documentario, I Fatti di Modena, sulla sparatoria che lasciò a terra sei operai in sciopero alle Fonderie Riunite. Lo schieramento di larghissima parte del ceto intellettuale a favore del PC e della sinistra in generale era diventato palese qualche anno prima, nel 48, in vista delle elezioni. All'interno del fronte delle sinistre, alleanza elettorale tra comunisti, socialisti e indipendentisti, si crea un comitato di coordinamento chiamato l'Alleanza per la Cultura, che aveva lo scopo di difendere la produzione culturale italiana di fronte ai monopoli capitalistici e alla sempre più stretta alleanza tra Italia e Stati Uniti. La paura era che il vorace mercato culturale nordamericano, molto più sviluppato del nostro, avrebbe potuto mettere fine alle iniziative nazionali. Non bisogna dimenticare comunque che la guerra tra superpotenze passava anche attraverso una guerra culturale. Il cinema, in quanto arte popolare di propaganda, riveste un ruolo di primo piano, oltre ad essere un mercato industriale di altissimo profitto per le majors hollywoodiane. Con la contrapposizione dei due blocchi, però, anche il PC si estremizza. Dall'URSS arriva l'eco del realismo socialista e dello spirito di Zdanov. Le poetiche accettate diventano più un'etichetta che non una vera e propria ricerca culturale. Le avanguardie vengono viste con sospetto e anzi rigettate. Il rapporto con la produzione culturale diventa un'opera di difesa del pensiero marxista tout court e il neorealismo stesso diventa un simbolo senza più reale rapporto con i gusti e i bisogni del pubblico o degli autori. Una specie di censura interna che si può in parte riconoscere nel dibattito del Politecnico del 1947, dove Togliatti ammoniva Vittorini di star ricercando la novità in sé e per sé, insomma un estetismo fine a se stesso. Al di là di tutto, la ricerca culturale dell'Italia del secondo dopoguerra si può dire ricca di ispirazioni, tentativi ed errori. Possibile anche grazie alla ricerca e alla creazione di strutture culturali apposite. Malgrado le difficoltà della ricostruzione politica, economica e sociale, il ruolo della cultura non era messo in secondo piano, anzi, era parte attiva del processo di rinnovamento. Ricordando le parole di Carlo Rizzani, che ci ha lasciati quest'ottobre, ci si muoveva in ambito nazional-patriottico, umanitario piuttosto che rigorosamente classista, ma dove serpeggia fortissima una caparbia volontà di cambiamento e di riforme, curiosamente commista a tensioni e impennate verso l'utopia. E con queste riflessioni vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org e alla prossima puntata!